Rassegna Stampa Europa. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Potendo scegliere la nazionalità, in Europa quella norvegese è certamente la più favorevole alle donne. Questa è la prima riga del nostro appuntamento con la rassegna stampa europea e ovviamente prendetelo come tale, come omaggio alle donne in questo 8 marzo. Dunque, questo articolo che vi ho citato è del Sole 24 Ore, firmato da Flavia Foradini. Il titolo è "Donna in Europa? Meglio essere norvegesi", come avete sentito. E l'OCSE dice: con la parità di genere aumenti di PIL fino al 12%. Leggiamo allora questo primo articolo. Questo vantaggio delle norvegesi, dunque, lo si evince chiaramente dagli studi e dai dati pubblicati dall'OCSE in occasione della Giornata Mondiale della Donna. Non soltanto, infatti, dopo la gravidanza, le norvegesi che lo desiderino possono tornare a lavorare dopo 9 settimane dal parto, con la certezza di avere nidi e successivamente scuole materne adeguati e nelle vicinanze. I loro compagni aiutano pure in casa per ben 3 ore al giorno, contro le 1,7 dei maschi nostrani, scrive la Foradini, quindi di noi altri, e i 45 minuti dei sudcoreani. Le donne con passaporto norvegese possono starsene davanti alla TV a chiacchierare con gli amici anche per 6 ore al giorno, più che in qualsiasi altro paese OCSE. In Italia gli svaghi sono 2 ore in meno al dì, a fronte di uomini italici che si allungano sul divano, sollevano pesi in palestra, si siedono al bar in media 5 ore su 24. Nonostante la debole congiuntura economica mondiale, la Norvegia è riuscita a proseguire la propria crescita in modo inclusivo, con lo sguardo all'eguaglianza di genere, offrendo ai propri cittadini livelli ammirevoli di benessere sociale ed economico. Questo lo dice Angel Gurria, segretario generale dell'OCSE, spargendo rose per Oslo. I dati globali, ora rilasciati, raccontano di un mondo in cui, in tema di diseguaglianze di genere, quasi nessun paese si può chiamar fuori. Benché ormai il 60% dei laureati del globo sia femmina, con un trend che secondo l'OCSE potrebbe raggiungere il 70% entro il 2030, nel pianeta le donne continuano ad essere gravemente penalizzate nel mondo del lavoro. Guadagnano in media il 16% in meno e il 21% nelle posizioni apicali, che però raggiungono molto raramente. Questo, come vi dicevo, il nostro primo articolo, "La donna in Europa", è di Flavia Foradini, Sole 24 Ore, lo ritrovate anche sul web. E ora, stampa europea, partendo dalla Polonia, Rzeczpospolita, il quotidiano sulla politica appunto polacca, edito a Varsavia, e il titolo è "Meno Europa in Europa". La questione che viene sollevata dalla giornalista Anna Solievskaya è una previsione di come le prossime, ormai abbastanza relativamente vicine, elezioni europee di maggio, 25 maggio in Italia, e l'impatto che queste elezioni avranno sul Parlamento europeo. Stando ai dati, alle previsioni più recenti, scrive la Slojevskaya, le indicazioni, insomma, la trasformazione dell'Europa è quasi inevitabile, con l'affermazione che viene data quasi per certo, o meglio la crescita, non l'affermazione assoluta, ma la crescita significativa dei partiti anti-europei. Per il quotidiano polacco si tratta di una trasformazione che ha un effetto terremoto, l'effetto di un terremoto sulla politica europea. E dopo, dice appunto la Slojevskaya, l'impatto sarà davvero grande quando si tratterà di riformare l'eurozona, la libertà di movimento delle persone, ma anche gli accordi che sono in fase di trattativa commerciale e di scambio con gli Stati Uniti. Di voto e di voto europeo si occupa anche El Paese, in un articolo di Ignacio Sotelo. Lui si occupa in particolare del tasso di astensione, che secondo appunto le previsioni gli spagnoli, il partito veramente vincente nelle prossime elezioni dal punto di vista iberico sarà quello degli astenuti. Si prevede un 44,3%. 3%, un dato che, come spiega l'articolo, non ha precedenti nella storia delle elezioni appunto europee con partecipazione spagnola. Altro genere di dato in questo caso invece è positivo perché secondo Hiradó, quotidiano online ungherese, i dati recenti di Eurostat dimostrano la bontà delle politiche scelte a Budapest. Il titolo è: la disoccupazione in Ungheria si riduce e si riduce più rapidamente della media UE. In particolare il dato in questione dice che tra dicembre 2012 e dicembre 2013 la media del tasso di disoccupazione in Ungheria è sceso di 2,3 punti percentuali all'8,8%. Tutt'altro genere di dati quelli che invece vengono segnalati dal quotidiano online ungherese Hiradó. In questo caso il titolo è piuttosto esplicito: il tasso di disoccupazione ungherese ben al di sotto della media europea. In particolare, spiegano appunto da Budapest, tra dicembre 2012 e dicembre 2013 il tasso medio di disoccupazione in Ungheria si è ridotto del 2,3%. Ha una cifra complessiva dell'8,8%. Tutto questo quando nell'Unione Europea il tasso di disoccupazione è del 10,8% e del 12% nell'Eurozona. Ecco un'occasione dunque per Hiradó, lo ricordo, ungherese, quotidiano online ungherese, per sottolineare come le scelte economiche del governo siano dunque delle scelte di successo. E poi in Grecia Katimerini, quindi quotidiano di Atene, che sottolinea, diciamo, le parole e gli scambi della visita del presidente tedesco Joachim Gauck. Come sappiamo, questi sono stati anche anni di relazioni molto tese tra Berlino e Atene. In questo caso il presidente tedesco, scrive Katimerini, è ad Atene ed ha parlato con a tutto campo dei rapporti tra i due paesi, ha parlato dell'estremismo di destra, ma ha parlato anche del tema delle riparazioni di guerra, un tema molto sensibile dal punto di vista greco. E a proposito di memorie, su Deutsche Zeitung, quindi qui siamo in Germania, memorie tragiche e grandi dunque preoccupazioni al titolo di questo articolo firmato da Klaus Brill. In questo caso si spiega come le manovre dei russi in Ucraina e l'intervento di fatto in Crimea stiano creando fortissima agitazione, stiano rianimando memorie dunque di un passato tutto sommato ancora piuttosto recente in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovacchia e negli stati baltici, nelle tre repubbliche baltiche che soltanto da poco più di 20 anni hanno di fatto riacquistato la loro indipendenza. Brill scrive che l'incertezza degli sviluppi appunto recenti e di fatto ancora in corso in Ucraina hanno profondamente scosso tutta quella parte d'Europa che nel Novecento ha vissuto in pieno l'invasione tedesca, l'occupazione sovietica e tutto il processo successivo. Dunque, grande preoccupazione e memorie traumatiche. Questo è il titolo dell'articolo della Süddeutsche Zeitung. In conclusione, torno al Sole 24 Ore e di fatto ancora per parlare di Germania, o meglio, qui parlavamo di un quotidiano tedesco, e invece il Sole 24 Ore con Roberta Miraglia parla di aumento record di stranieri, accelerano gli arrivi dall'est Europa in Germania. Aumentano a livelli record gli stranieri residenti in Germania, 7,6 milioni su una popolazione di 80, confermando la tendenza in atto ormai da qualche anno nel paese. Schizzano in alto soprattutto gli arrivi dall'est Europa, quindi Romania e Bulgaria in testa. Nel 2013 gli immigrati sono cresciuti del 5,8% rispetto al 4,1 del 2012, al 2,6 del 2011. Insomma, anche questa è la crisi in una chiave strettamente, si può dire in questo caso, europea. Con questo è tutto, in regia Fabio Cantadori, Gigi Donelli al microfono, un saluto e una buona giornata a tutti voi. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.